Vendo tutto di Matteo Caccia. Fino ad oggi ho venduto un iPod, una Vespa, una videocamera e un avvitatore. E poi una racchetta da tennis, delle catene da neve, una cerata da barca, un quadro e una bottiglia. Ma è ancora poco, perché io voglio vendere tutto. Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato. Dopo 4 anni insieme mi ha lasciato. Capita, lo so, succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso. Mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita. Io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo un contapassi. Sono le 16:08 minuti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e visto che oggi parlo di corsa, insieme a me c'è Giuseppe Cruciani. Buon pomeriggio a tutti. Buongiorno Giuseppe. Giuseppe, tu sei il maratoneta di Radio 24. No, non sono solo, siamo tanti. Senti, da quant'è che corri? Da 6-7 anni. E quanti chilometri fai al giorno? Ma 10, 11, 12, 15, 20, dipende. Ma e tu usi un contapassi? Perché io... No. Ah, non lo usi? Uso un orologio satellitare, che è una cosa un po' più evoluta del contapassi. E cosa segnala? Segnala tutto. Ma anche i passi, cioè la distanza che percorre? La distanza, il battito del cuore, i chilometri. Ah, ok, è una roba più evoluta. Quindi sono i dilettanti come me che cercano di capire quanti passi fanno in una volta e in quanto tempo. Diciamo che è una cosa un po' primitiva. Il contapassi. Esatto. Anche perché poi nel contapassi devi inserire la distanza che percorri facendo un passo, e quindi è praticamente impossibile misurarla. Non è mai reale. Col satellite sai esattamente quel chilometro, è un chilometro. Tu fai le maratone? Sì. Cioè 42 km e 195. 195. Quante ne hai fatte? 12, 13. E il tempo record qual è? 3:41. Che 3 ore e 41. Che è un buon tempo. No, non è un buon tempo. È un tempo da amatore, da una persona che si diverte, non da... Vabbè, ma un buon tempo qual è? Un buon tempo è 3 ore. Ok. 3 ore e 10. Eh beh, 3:40 non è così male comunque. Sì, ma 3 ore e 10 è un tempo per cui bisogna allenarsi molto. La maggior parte delle persone saranno amatori, no? Immagino. La maggior parte delle persone sono tra le 3 ore e 25 e le 3 ore e 45. Senti, perché? Questa è chiaramente la prima roba che mi viene in mente. Nel senso che io so perché ho cominciato a correre, che poi non corro come te ovviamente, cerco di correre 1 ora al giorno. Per motivi diversi racconterò più tardi per quale motivo. Ma perché uno decide di cominciare a fare così tanta fatica? Per mettere alla prova il tuo corpo, perché magari nella vita ti succede qualcosa e la reazione può essere quella di mettere appunto alla prova il tuo fisico, la tua mente, perché poi la corsa è soprattutto una questione mentale. Io ho iniziato a correre in maniera, diciamo, più tra virgolette professionale quando è nata mia figlia, perché probabilmente stavo troppo dentro casa e ho detto adesso devo uscire, dunque ho programmato le maratone. Era una scusa per uscire. Una scusa per uscire da casa. E quando corri, quanto corri? A parte i chilometri, dico, tu corri tutti i giorni proprio? No, 4 giorni a settimana. E per quanto tempo più o meno? Un'ora, un'ora e mezza, poi dipende dal tipo di allenamento. La domenica magari faccio 2-3 ore. E corri da solo? Durante la settimana sì, la domenica mai. Senti, invece prima parlavamo del momento di crisi, parlavamo della musica che si ascolta, sì. Che tu hai detto che non ascolti. Alcune volte sì, altre no, raramente però. La radio, ascolto molto la radio. Uh-huh. Quindi non ti chiederò che radio ascolti mentre no. Corri, però volevo chiederti meglio di... quando arriva il momento di crisi. C'è sempre un momento di crisi, no? Io ho realizzato dopo poco che avevo comprato il contapassi, poi figurati, lo vendo già subito oggi, quindi figuriamoci, però che c'è proprio il secondo fiato, no? Eh sì, ci sono sempre i momenti di crisi, poi si possono superare oppure sono quelli che ti stroncano definitivamente, si possono anche non superare. E la musica a me per esempio non aiuta, quando ci sono momenti di crisi me la tolgo se ce l'ho. Invece c'è una teoria abbastanza diffusa secondo la quale la musica è addirittura qualcosa di dopante, volevano proibirla a New York un paio di anni fa. Sì, E poi non ci sono riusciti perché è impossibile. Qual è stata la maratona che hai corso in minore tempo? Sì, meglio, minore tempo, è la stessa cosa, no? Correre. La maratona più bella, diciamo la maratona più bella adesso, quella in cui ho corso, non me la ricordo, la maratona più bella è stata quella di Firenze. Perché? Perché Firenze è meravigliosa ed è organizzata molto bene, è tutta al centro, è molto bella. E lì momenti di crisi o roba del genere? No, Firenze no. Cioè può essere che fai 42 crisi, km no, senza... momenti di crisi ce l'hai sempre, la fatica la provi sempre, in alcuni chilometri fatichi di più, però Firenze... E invece la maratona più brutta? Praga. Perché? Tutta in periferia, orrenda. 800 24 00 24, questa è la storia della corsa di Giuseppe Cruciani. A breve vi racconterò la mia, se volete raccontarmi la vostra. 800 24 00 24, oppure 349 238 6666. Io ringrazio Giuseppe Cruciani per il suo racconto. Buon pomeriggio a tutti. Se volete sentire la storia del mio contapassi la potete ascoltare a breve, altrimenti radio24.it, ma la storia comincia ora. Il contapassi. Podometro marca Genot, modello Dista T300, colore grigio. Calcola il numero dei passi, la distanza e le calorie bruciate. Dotato di clip per aggancio alla cintura. possibilità di scelta della modalità camminato o corsa, display retroilluminato. Perfetto per correre, camminare e vantarsi dei chilometri percorsi. Valore commerciale 19,90 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it, per la diretta 800 24 00 24. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Avete presente quelli che fanno dell'attività fisica una religione? Ci sono persone che affiancano alle loro attività professionali altri generi di attività. Alcuni hanno hobby statici, altri dinamici, altri ancora fanno dei giochi che hanno uno scopo prettamente ludico. E poi ce ne sono degli ultimi che fanno del muovere i muscoli una sorta di filosofia di vita. Quelli che ci sia il sole e la pioggia, 30 gradi o 3, si infilano una tutina attillata, un paio di scarpe da ginnastica ed escono a correre. Ce li avete presente? Bene, io sono uno di quelli. Corro tutti i giorni ininterrottamente da quasi 6 mesi. Non corro la mattina presto come fanno le persone che hanno un lavoro regolare. Il mio orario oscilla tra le 11 del mattino e le 2 del pomeriggio in inverno, mentre in estate corro tra le 18 e le 21, prima impossibile per il caldo e poi lo diventa per le zanzare. Corro per un'ora, a volte un po' di più, a volte un po' di meno. Ho iniziato a correre per combattere il mal di testa. Soprattutto il mal di testa della domenica, quello che mi prende appena sveglio e non mi passa più. Sembra fatto apposta per riempire il vuoto di quella giornata lì. Di solito il picco lo raggiunge verso le 5 del pomeriggio, nel mezzo della digestione. Poi sembra diminuire, invece verso le 8 di sera riprende e il cervello inizia a pulsare. Ho iniziato a correre perché mi sembrava che respirare un po' d'aria fresca potesse alleviare il dolore alla testa, però non mi andava di camminare nel parco come uno che porta a spasso un cane senza il cane. E quindi ho fatto così, mi sono infilato una tuta e sono uscito. Fino ad allora l'emicrania la combattevo con un Aulin. Quando quello ha smesso di funzionare sono passato a 2. Poi hanno smesso di fare effetto entrambi e allora ho deciso di provare a stancarmi. La prima corsa è durata non credo più di 15 minuti. Era inverno ed era buio. Nel parco c'era quell'odore di umido che sale dalla terra e che se non sei di ottimo umore ti deprime fino alla primavera dopo. Davanti a casa mia c'è un pezzo di verde e una pista che gira intorno a dei palazzi costruiti di recente. Quando sono arrivato a metà del percorso mi sono fermato, convinto che stesse per venirmi un ictus. La testa mi faceva più male di prima, però il dolore era diverso. Sembrava un dolore vivo, era come se il mio cervello fosse una bestia strana che ansimava. Ho camminato fino a casa, non ero nemmeno sudato, però ansimavo come un Labrador. Sono entrato e il caldo dell'appartamento mi ha stordito. Mi sono seduto sul divano, che non mi era mai sembrato così morbido, e lentamente i muscoli hanno cominciato a rilassarsi e il mal di testa a sparire. In quel momento lì ho capito che quella cosa avrei dovuto ripeterla tutti i giorni. I will be king and you will be queen though nothing drive them away. We can beat them just for one day. We could steal time just for one day. Io la chiamo la corsetta di tutti i giorni. Questo contapassi in questi mesi mi ha aiutato a seguirla. Ho misurato quanto ero lunga una mia falcata, ho inserito i centimetri nel display e voilà. Tutti i giorni sapevo quanti chilometri avevo percorso e quanti passi avevo fatto. Dicono che per rimanere in perfetta salute si debbano fare almeno 10.000 passi al giorno contro i 3.000 che si fanno abitualmente. Secondo me c'è qualcosa di religioso nel decidere che una cosa la farai con una cadenza fissa, costante. È un po' come si decide di svegliarsi tutte le mattine della propria vita con a fianco la stessa persona. Oppure andare tutte le domeniche in un luogo di preghiera. A qualsiasi attività sia, penso che la ripetizione costante abbia a che fare un po' con la paura e un po' con l'eccitazione anche. Mi spiego, cioè ogni giorno quando mi preparo ad uscire per correre, provo sempre un misto di paura e di eccitazione. L'eccitazione è un riflesso condizionato, perché prima ancora che il mio cervello liberi le endorfine per lo sforzo è come se ne pregustassi già il sapore. La paura invece è quella della sconfitta. Cioè, ogni volta potrebbe essere quella in cui non raggiungo il mio obiettivo, correre per un'ora intera. Durante quei 60 minuti ci sono diversi momenti in cui vorrei mollare. Penso che in casa fa caldo, che mi potrei fare una doccia calda, poi sdraiarmi sul letto e addormentarmi. Ecco, semplicemente non bisogna pensarci. Pur sapendo che il momento di crisi arriverà, bisogna distogliere il pensiero. I primi giorni la crisi arrivava presto, sembrava definitiva. All'inizio ero disperato, credevo di non avere più il fisico, di non avere più il fiato, che all'età di 34 anni il mio corpo avesse già iniziato il suo declino. È stato allora che fortunatamente ho sentito parlare del secondo fiato. Il secondo fiato è un'improvvisa transazione dalla sensazione di morte imminente a quella di resurrezione, che arriva più tardi. Il secondo fiato è un concetto che ho cominciato ad applicare a diverse attività, non solo alla corsa, al lavoro, ad esempio, però anche alla lettura o ai rapporti umani, che siano d'amore o d'amicizia. È un po' come concedere una seconda possibilità a se stessi, un modo per sapere che anche se sembra che non ce la fai più, boh, forse non è vero, forse ce n'è ancora, in fondo, da qualche parte. E quando succede, cioè quando effettivamente ce n'è ancora, la sensazione è meravigliosa, perché senti che ce la stai facendo e ti senti bene, anzi ti senti addirittura meglio di prima e pensi che potresti continuare ancora e ancora e ancora. Questo contapassi ha misurato non solo i chilometri che percorrevo, ma anche la disciplina che ogni giorno riuscivo a mantenere. Perché credo che la disciplina non sia quella che ti insegnano a scuola o al militare, per chi l'ha fatto ovviamente. Non credo in una disciplina unica, credo in un metodo privato, un esercizio intimo che ci mette su una strada e ci fa correre o camminare al nostro ritmo, con il nostro fiato, con il nostro passo. Nonostante tutto però, nonostante 10.000 passi, il secondo fiato, questo contapassi, è in vendita. Il suo valore sul mercato è di 19,90 euro. La base d'asta qui però sono 99 centesimi. Se voi, se anche voi, avete corso, fate le maratone, correte ovunque, in montagna, al mare, in spiaggia, 800-024-0024. Ho sempre pensato che correre fosse anche un buon modo di sciogliere i pensieri. Meditazione in movimento. Questo è Federico al 349-238-6666. Invece all'800-24-0024 c'è Beppe da Milano. Pronto Beppe? Pronto? Ciao Beppe, ci sei? Ci sei, non ti sento. Eccoti qua, come va? Tutto a posto? Tutto bene. Senti, bene, bene, grazie. Tu corri? Io corro, corro tanto, sono un ultramaratoneta. Cioè? Cioè faccio gare che vanno oltre la maratona, quindi 100-200 chilometri. Ma in una volta sola? Su strada che in montagna, nei deserti. Ma in una volta sola, Beppe? Sì, sì, no, no, no stop. Scusami, ma una corsa di 200, hai detto anche 200 chilometri? Sì, c'è una corsa che tra l'altro una corsa importante per gli ultramaratonetti, si chiama Nove Colli Running, si tiene a Cesenatico sullo stesso percorso che fanno la Nove Colli di ciclismo, solo che noi che siamo un po' pazzi partiamo e lo facciamo a piedi. Senti, quanto ci metti a fare 200 km a piedi? Ma allora, il primo ci mette 22-23 ore, io ce ne ho messe 26-40. Ma scusami, senza, cioè, ti fermi per mangiare una roba, fare la pipì? Sì, no, qualcosa? Beh, devi interpretarlo in queste cose, sono anche Nove Colli, quindi ci sono dei colli in cui ci sono delle rampe di salita al 18% che non puoi correre quelle. Quindi ok, cammini. Quindi le cammini. Senti Beppe, ma poi lasciamo, sentiamo anche altri perché ce ne sono, sì, diverse, sì, persone, sì, che corrono, ma che cosa pensi mentre corri? Io dico che la corsa, l'ultramaratona, è una introspezione con te stesso, quindi non è che puoi distrarti con la musica, con questo o quell'altro, è un percorso, come si può dire, al posto di andare in analisi dallo psicanalista, okay, lo fai con te stesso, vedi tutta la tua vita, vedi te stesso, non ti puoi nascondere davanti a niente. Ti costa di meno e rimani in forma. Sì, sì, no, ma è quello sicuro. Grazie, ma Beppe. Soprattutto, dimmi, finisci pure. No, stavo dicendo, soprattutto questa cosa è sotto, ascoltavo le tue parole prima, che ti dà la corsa in generale, adesso non dico che tutti devono fare queste gare così lunghe, però... La corsa in generale in sé. È una cosa generale, io ho fatto 22 anni di rugby e dopo, per causa forza maggiore, quindi l'età, mi hanno fatto finire, e come ho cominciato a correre mi sono riappropriato del mio corpo, sensazioni, tutto quello, è un ritorno ancestrale a quelle che sono le sensazioni dell'uomo. Beppe, il messaggio è chiarissimo, sentiamo qualcun altro. Grazie mille, buona giornata e buona mega maratona, ultramaratona che sia. Ciao, grazie, andiamo da Alessandro, in provincia di Varese. Pronto? Eccomi qua. Ciao Alessandro, tu cosa fai? Ciao, corri anche tu o cammini? Bene, io non corro, io cammino veloce. Cioè, che differenza fa? Io ho sempre, parlando di contapassi, ho sempre un contapassi con me, in macchina, nel mio zaino. Ma tutto il giorno? In cosa? Ce l'ho sempre, perché mi capita sempre di fermarmi, di vedere una bella una pausa pranzo e fare 2 ore di cammino veloce, di ricambiarmi e via. Tu che, ma che lavoro fai Alessandro, scusami? Sei spesso in giro? Sono un libero professionista, sono spesso in giro, sono sempre in giro, per cui ho delle zone tra Milano, Lecco e Varese, per cui mi posso fermare e mi prendo il mio tempo e me lo godo così. Quanti passi fai al giorno, visto che hai contapassi e lo sai? Dagli 8.000 ai 10.000 passi, sempre. Alessandro, sempre. Io ho iniziato 6 anni fa per allenarmi al Cammino di Compostela, dove abbiamo fatto 800 chilometri, per cui i passi sono veramente tanti, sì. in 22 giorni, ed è stato un allenamento favoloso. All'epoca il mio contapassi faceva 1.350 chilometri. Però, grazie mille Alessandro, buona giornata. Oh, buona camminata a tutti. Grazie, ciao. Andiamo a Lucca, da Luca. Sì, pronto. Ciao, scusami, non capivo dove mettere la C. Anche tu corri e fai maratone? Sì, io faccio la consueta corsetta di tutti i giorni e poi una specie come te. E poi mi sto iniziando a preparare per una maratona. Ah, quindi non la fai come me, tu proprio ti stai preparando, cioè c'è un allenamento, sì, c'è del metodo. Sì. Sì, sì. Senti, ma c'è del metodo anche in quello che mangi, nell'alimentazione? Certamente, diciamo, c'è da evitare un po' di cibo pesante, si cerca di equilibrare l'alimentazione. Hai già fatto delle maratone o è la prima? No, sarebbe la prima. Ah. E poi il mio sogno è fare quella che è più famosa qua in Toscana, la Firenze-Faenza, la 100 km del passatore. Va bene, ti faccio gli in bocca al lupo, Luca. Sentiamo l'ultimo al volo, Ezio da Bologna. Pronto? Ciao, sono Ezio. Ciao Ezio, tu fai maratone da tanto invece? Sì, da 35 anni. Quante ne hai fatte? Una 18-20, se una volta se ne facevano pochi in un anno, e ho 2-23 sulla maratona. Hai 2-23? Sì. Ammazza, ma a Cruciani gli fai un mazzo così, te? Sì, quello fa 3-40, tu fai 2-23. Sì, volevo dirglielo, ma il problema è che una volta, sai cosa si faceva? Ci si alzava la mattina alle 5, si andava a fare... Una volta si lavorava. Due ore e mezzo di fondo, alla sera venivi in casa, invece andavi dalla fidanzata, andavi in pista a fare le ripetute. Certo, era un lavoro. Senti Ezio, al volo che dobbiamo chiudere, dimmi un motivo per cui dovrei continuare a correre. Ah, straordinario, favoloso, stai bene. Poi ti faccio un elenco di un'ora dopo. Va bene, questo me lo scrivi avendo tutto @radio24.it. Grazie mille Ezio, buona giornata. Ciao. L'ultimo messaggio di Felice. Io ho cominciato a correre per obbligo il secondo giorno di addestramento a Castel d'Eure, dopo essermi arruolato nella legione straniera francese del 1989. Da allora non mi sono più fermato. Ciao Felice, ciao anche a Laura Faggin, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e Fabio Rudi Cantadori. Il mio è un normalissimo contapassi, però se volete vederlo andate sul sito radio24.it, e se volete risentire la puntata lì trovate pure il podcast. L'oggetto di domani invece è un oggetto splendido ed è frutto di una mia grande passione per la fotografia. Domani vendo una macchina fotografica, una Pentax 6x7. Voi intanto fate come Cruciani, iniziate a correre anche senza contapassi, che alla fine pure quello è solo un contapassi. Love, love.